si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale. La domenica su Radio 24 cerchiamo di invertire un po' il trend depressivo delle cattive notizie della settimana, raccontando piccole storie virtuose che, perché no, magari ci fanno anche sorridere. Oggi parleremo di orti e contadini, ma anche di baratto, e avremo una bella storia per quanto riguarda il microcredito. Il nostro avviso ai naviganti, 800 24 00 24. Subito qualche notizia veloce perché abbiamo molte cose di cui parlare oggi. Passi avanti in Emilia-Romagna per il bike sharing, cioè il sistema delle biciclette pubbliche che si utilizzano pagando un piccolo canone. D'ora in poi si potrà utilizzare in tutta la regione una stessa tessera, la stessa per gli abbonamenti ai mezzi e pubblici, e si potrà dunque utilizzare anche il sistema bike sharing lo stesso in tutta la regione. La prima città ad adeguarsi è stata Parma, seguiranno Bologna, Reggio Emilia e Ravenna. A Milano, musei civici gratis per tutta l'estate. Il ministro dei beni culturali Ornaghi ha detto: il nostro obiettivo è partire da Milano e creare una rete in tutta Italia. Dal 19 giugno dunque al 30 agosto a Milano si entrerà gratis nei musei civici, tra i quali il Museo del Novecento, la Galleria d'Arte Moderna, il Castello Sforzesco, il Museo di Storia Naturale ed altri. L'ultima notizia riguarda sempre Milano, Profit No Profit, un sodalizio possibile, un'iniziativa benefica organizzata proprio da Radio 24 e dal Sole 24 Ore. Da domani al 30 maggio presso la sede del gruppo Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano ci sarà un importante evento promosso dall'Associazione per il Bambino Nefropatico e dall'Associazione Famiglie Temporanea Accoglienza. Nella grande area espositiva ci sarà la possibilità di acquistare articoli di moda prestigiosi di grandi marche a prezzi interessanti, e una parte del ricavato andrà in beneficenza a queste associazioni. 40 marchi di eccellenza, sconti fino al 50%. Noi aspettiamo in settimana le vostre segnalazioni sul nostro profilo Facebook, si può fare trattino Radio 24, e poi anche sulla nostra segreteria telefonica. Questi i messaggi che sono arrivati, i commenti alla puntata della settimana scorsa dedicata alle mamme. Io suggerisco il congedo parentale obbligatorio anche per i papà, che potrebbero aiutare le mamme. A Pistoia esiste una biblioteca comunale dove il sabato mattina i genitori leggono i libri ai propri figli piccolissimi, bimbi anche da pochi mesi fino a 8 anni. Volevo ricordarlo appunto anche a quella mamma di Roma che ci diceva di questa importante biblioteca che c'è a Bologna. Viva Dio, c'è anche a Pistoia. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. C'è la capra, espiatoria, c'è il gomito, del tennista sconsolato, non può più giocare. C'è un po' un clima da vecchia fattoria, oppure se preferite, per dirla con Elio, da vecchia azienda agricola, a Bari, al quartiere San Paolo, dove da un po' di tempo vanno di moda gli orti. Orti per bambini, orti per disabili, orti per anziani, orti per i condomini, orti sociali, dove nascono moltissime altre attività. In un quartiere popoloso, di quelli, sapete, coi palazzoni in periferia, dove in genere non c'è molta vita. Il programma si chiama San Paolo Social Network. Noi abbiamo scritto, titolando la puntata di oggi, a San Paolo il social network è nell'orto, anziché essere in borsa come Facebook in America. Vabbè, qualche giorno fa è stato inaugurato un nuovo spazio, un nuovo orto. Abbiamo convocato Angelo Villani della cooperativa Esedra, che è program leader del progetto San Paolo Social Network. Buongiorno. Buongiorno a voi. E c'è con lui anche una mamma, Elena, coinvolta proprio in quest'orto sociale per bambini. Prima di parlare dei bambini, ci racconti un po' questo progetto teso a rianimare tutto questo, il quartiere, insomma, che coinvolge molti attori. È un progetto abbastanza importante per rianimare il quartiere San Paolo di Bari. Sì, il progetto San Paolo Social Network è nato l'anno scorso grazie a un finanziamento di Fondazione con il Sud ed è, diciamo, realizzato da una serie, da un partenariato di oltre 30 soggetti pubblici e privati guidati dalla cooperativa sociale Sedra. È un progetto di sviluppo locale che si muove su tre assi principali di intervento, che sono l'aggregazione delle persone del quartiere per promuovere le reti di protezione sociale, con la riqualificazione di spazi pubblici, la progettazione partecipata e tante altre attività di ascolto, di aiuto, di aggregazione. E poi c'è il tema dell'educazione, con tante attività che vanno dalle fasce dei bambini da 2 anni a 5 anni, con per esempio una biblioteca per bambini che ancora non sanno leggere per prevenire il ritardo scolastico, le attività di doposcuola, di orientamento scolastico, di start-up, di nuove imprese, di formazione professionale. E poi ci sono attività culturali che sono rivolte soprattutto ai giovani, teatro, cinema, ci sono i corsi di grafica 3D, l'archivio, insomma, di quartiere, insomma tantissime cose, tutto però parte dagli orti. Allora io vorrei sentire subito Elena, la mamma Elena, su come vi siete fatti coinvolgere in questa iniziativa che riguarda anche i vostri bambini e quali emozioni hanno provato i bimbi giocando a scoprire i segreti della terra nell'orto. Elena. Sì, buongiorno a tutti, grazie della possibilità di poter parlare di questa esperienza bellissima che abbiamo vissuto con i nostri bambini, che devo dire sono felicissimi di poter avere questo contatto con la terra e devo dire ci stanno insegnando tante cose. Ormai tornano a casa e ci raccontano cosa possiamo comprare, cosa dobbiamo cucinare, è un po' una riscoperta, perché insomma un tempo c'era questa espressione che diceva la via dell'orto, no? Perché l'orto era dietro casa e tutti conoscevano l'orto, ma molto tempo fa. Adesso per i bambini di oggi è veramente una scoperta questa dell'orto, no? È vero, ce ne stiamo accorgendo anche noi mamme e noi mamme e papà, e si divertono anche tantissimo, quando sono in compagnia imparano, è bellissimo vederli lavorare e conoscere. Angelo Villani, però le vorrei chiedere anche questo, perché siete partiti dall'orto per i bambini che è stato aperto qualche giorno fa, però poi le richieste si moltiplicano e voi contate con questo progetto di aprire fino a 10 orti in tutto il quartiere. Sì, perché noi dovevamo realizzare un orto sociale, ma avendo acquistato l'attrezzatura, per esempio una motozappa, ed essendo a contatto con tantissime persone del quartiere, hanno iniziato a chiederci: ma perché non lo fate anche in questa parrocchia? Perché non lo fate anche nel mio condominio? E quindi adesso ne stiamo realizzando altri 2, ma guardando un po' le richieste che ci sono arrivate, pensiamo che una decina, insomma, sia abbastanza attendibile. Anche perché l'orto è un luogo di aggregazione dove le persone possono fare una cosa insieme, farsi compagnia, imparare, essere a contatto con la natura, e quindi in una zona urbana dove non ci sono grandi opportunità, ovviamente l'orto diventa un presidio non soltanto di legalità ma anche di aggregazione e di divertimento. Grazie, noi orto per orto vi seguiremo e cercheremo di vedere quali altri orti inventerete e vi inventerete nel quartiere San Paolo di Bari. Grazie ai nostri ospiti Angelo Villani, Elena, la mamma della bambina coinvolta in questo caso nell'orto sociale. E noi oggi però vi vogliamo chiedere, cari ascoltatori, 800 24 00 24, chi ci salverà guardando al futuro, gli ingegneri o proprio i contadini? È più utile secondo voi per i vostri figli farli studiare, farli diventare laureati, oppure prepararli a conoscere i segreti della terra, insomma fare il laureato o il coltivatore? Si può fare cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, avete sentito questa esperienza al quartiere San Paolo di Bari, un quartiere periferico dove una miriade di orti sociali stanno lanciando per rianimare, insomma, il quartiere. E noi oggi vi chiediamo all'800 24 00 24, chi ci salverà guardando al futuro, gli ingegneri o i contadini? Insomma, per i vostri figli cos'è meglio, un futuro da laureati o da coltivatori? Tra poco, 800 24 00 24. Prima di darti la mia verginità voglio la verità. Oh, io ho avuto pochi amori in vita mia. Se prescindi dall'affetto di una cagna e per giunta con la rogna, ehi, se ti do il pelo tu che mi dai? Ehi, detto con questo sottofondo mitico di Renato Zero, andiamo adesso a Milano per capire cosa accade fino al 31 maggio in via Lanza 3 a Milano, ripeto, dove si tengono le lezioni e i corsi della Trade School, la cui filosofia di base è lo scambio dei saperi, un po' come nella canzone di Renato Zero, forse non esattamente allo stesso modo, ma insomma, io insegno gratuitamente una cosa a te e tu ricambi, fai la stessa cosa con me su un altro argomento, tutti siamo alla fine più ricchi e contenti, più ricchi nell'anima, e non siamo sicuramente più poveri perché non si spende un euro. È così? Lo chiediamo a Danila Pellicani, una delle fondatrici di Trade School. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Ho spiegato bene quello che accade? Sì, nei sì, vostri corsi. Sì, esatto. Fondamentalmente il processo è questo, quindi un'altra cosa fondamentale è che tutti possono tenere una lezione, quindi qualsiasi persona, anche un bambino che ha una passione o sa fare qualcosa molto bene, lo può insegnare ad altre persone e in cambio riceve o una lezione oppure anche oggetti o servizi che ha richiesto proprio lui. Quindi un baratto proprio anche quasi, insomma, in senso ampio. Quali sono, certo, i corsi che vanno per la maggiore? So che quest'anno rispetto all'anno scorso, che è stata credo la prima iniziativa, la prima manifestazione, insomma, in questo senso, quest'anno ci sono molte iscrizioni, qualunque corso è pieno di gente, è così? Sì. Decisamente, non riusciamo ancora a capacitarci del perché, nel senso che in due ore tutti i corsi sono... Cioè basta mettere l'annuncio di un corso, in due ore, paf, si riempiono le iscrizioni. Insomma, sarà anche proprio perché non si spende e con questa crisi, insomma, abbiamo detto mille volte, però deve essere proprio così. Quali sono i corsi più gettonati, così giusto per avere un'idea? Ma allora, tendenzialmente sono i corsi più pratici, quindi chiamiamoli workshop, dove si impara materialmente a fare qualcosa. Per esempio l'altro giorno abbiamo avuto un corso di come si fa la pasta sfoglia, però quest'anno abbiamo avuto anche un po' di corsi a tema economia, molto gettonati, proprio per capire quello che sta succedendo in questo momento a livello economico in tutto il mondo. Ma il target, si dice così, insomma, il vostro obiettivo di pubblico, cioè l'obiettivo, chi sono le persone che si rivolgono a voi? C'è un profilo medio? Parlava di bambini, ci saranno anche adulti, ceto medio alto, gente che ha studiato oppure gente che ha sete di sapere? Allora, tendenzialmente il target direi che va dai 20 ai 35 anni. Quindi giovani? Per la maggiore creativi, designer, architetti, artisti, però ci sono anche persone che tramite il passaparola sono arrivate a noi, che fanno tutt'altro. Il target si è abbassato rispetto all'anno scorso, per esempio di età. Ecco, ma c'è la voglia di sapere, o c'è anche la voglia di mettersi alla prova come insegnanti, di esibirsi e di trasmettere un qualcosa di cui si è in possesso, spiritualmente parlando? Entrambe le cose, infatti la maggior parte poi degli insegnanti non sono insegnanti veri, nel senso sono appunto persone che hanno una passione, che hanno voglia di condividerla con tutti gli altri. Io ricordo www.tradeschool.it per chi volesse informarsi su questa iniziativa. Perché solo a maggio questa cosa avviene? Immagino forse per problemi di costi legati a una struttura permanente tutto l'anno? Sì, perché comunque è un progetto che porta via molto tempo a livello organizzativo. Sì, siete volontari voi che lo fate, sì, che lo curate, immagino? Sì, assolutamente, e quindi possiamo permetterci di farlo una volta all'anno. È così per le trade school che ci sono in giro per il mondo, comunque un po' un format dato anche. Insomma, se magari il comune vi desse una mano con una sede o con qualcosa, o con qualche sostegno logistico, non vi farebbe schifo, insomma. Per ah esempio. No, certo. Vabbè, insomma, l'abbiamo buttata lì. www.tradeschool.it. Io ringrazio Danila Pellicani, una delle fondatrici di questa iniziativa a Milano, ce l'ha raccontata, ce l'ha spiegata bene. L'appuntamento per l'anno prossimo sempre a maggio o ci sarà qualcosa prima? Tendenzialmente sempre a maggio, ma durante l'anno facciamo degli eventi speciali, quindi basta controllare il sito ogni tanto. Tenete d'occhio il sito, grazie Danila. Grazie a voi. E buona giornata. E adesso, prima degli aggiornamenti dal giornale radio, dal GR 12:30, risparmiare 5.000 euro all'anno in 15 mosse. Si può fare. sulla questione della crescita. Per crescere di più. Per stimolare la crescita. Nuove occasioni di crescita. La crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica. Eppure, per vivere bene, non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. 5.000 euro sono una bella cifra. Oddio, poi dipende. Sono per esempio lo 0,0002% del debito pubblico. Ci si compra un sacco di roba. E tu? Ti piacerebbe trovarti in tasca 5.000 euro senza lavorare? No, non è una proposta per diventare consigliere regionale. È una proposta di decrescita felice. Si possono risparmiare 5.000 euro in un anno. È semplice, basta seguire alcuni consigli, come quelli di cui ci parla Massimo di Milano. Nel 2009 abbiamo fatto questo studio a Roma con un'associazione che condivide i principi della decrescita felice, che si chiama Fare Verde. Abbiamo praticamente individuato 15 comportamenti ecologicamente corretti in 5 aree: l'alimentazione, i rifiuti, l'elettricità, la mobilità e il riscaldamento. Per ogni comportamento abbiamo individuato, diciamo, l'alternativa sostenibile che ci consente di ridurre il nostro impatto ambientale. Poi abbiamo calcolato quanto si risparmia per ogni comportamento assunto, arrivando a una cifra complessiva per una famiglia residente a Roma di 5.249 euro all'anno. Si tratta di semplicemente cambiare il proprio stile di vita, e sono scelte che non richiedono neanche dei particolari investimenti. Si tratta per esempio di bere acqua del rubinetto anziché dell'acqua minerale in bottiglia, di usare pannolini lavabili invece di quelli usa e getta, di stare attenti allo stand-by degli apparecchi elettronici, di usare la lavatrice a basse temperature, di usare un'auto in car sharing invece di una seconda auto in famiglia e così via. Si tratta di uno studio che secondo noi è particolarmente importante di fronte a una riduzione del prodotto interno lordo. Riduzione del prodotto interno lordo significa ovviamente riduzione del reddito sia nazionale che pro capite, sia che esso sia determinato da una fase di recessione, sia che sia una scelta consapevole di decrescita felice e selettiva del PIL attraverso l'eliminazione di sprechi e di inefficienze. Invitiamo tutti a consultare questo studio sul sito del Movimento della Decrescita Felice, www.decrescitafelice.it. Avete ascoltato Come risparmiare 5.000 euro l'anno? È la decrescita felice e si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, vi ricordo Si può fare, cronaca da un paese migliore, ci trovate anche su Facebook, Si può fare trattino Radio 24, vi aspettiamo durante la settimana con le vostre segnalazioni, con le vostre ricette per salvare l'Italia. E allora 800 24 00 24, invece adesso in diretta vi aspettiamo, perché siamo partiti dagli orti sociali del quartiere San Paolo di Bari, e oggi vi chiediamo: meglio per i vostri bambini un futuro da contadini o da laureati? 800 24 00 24. Antonietta da Roma, buongiorno. No. Antonietta? Sì. Eccola qua. La sento. Niente, volevo dare il mio parere, perché dico, un contadino potrebbe essere pure laureato, perché no? Si studia anche per una soddisfazione propria. Certo, certo, è vero. E tra l'altro io ho un carissimo amico che fa il contadino, fa il coltivatore e è anche laureato in agraria, certamente. Beh, però c'è una certa differenza, c'è una netta differenza tra studiare saperi astratti, magari come dice lei per il proprio piacere, e invece conoscere i segreti della terra e fare il contadino. 800 24 00 24, su questo vi vogliamo sfrugugliare oggi, cari ascoltatori. C'è anche Katia che ci chiama da Milano, buongiorno. Da Pavia, buongiorno. Da Pavia. Eccola qua, Katia. Cosa ci voleva raccontare? Volevo raccontarvi che dal 21 al 24 giugno all'Orto Botanico di Milano, di Pavia appunto, che è uno spazio gigantesco e antico, perché l'Orto Botanico è un palazzo settecentesco barocco. Ma quello di Milano però sta dicendo, nel quartiere Brera? No, quello di Pavia, l'Orto Botanico di Pavia, che è dell'Università degli Studi di Pavia. Sì. Cosa succederà? È un palazzo settecentesco e con in questa area più il Collegio Borromeo, che è un palazzo del 600, con giardino rinascimentale e ortaglia, noi organizziamo Hortus con Slow Food che sarà un grande festival che dura 4 giorni, dal giovedì alla domenica. Noi abbiamo 50 laboratori per adulti, bambini, degustazioni, corsi di tutti i tipi, come fare i funghi in cantina, come coltivare l'orto all'inglese, di tutti i tipi. Poi faremo anche dei quadri di moda floreale con Event Academy. Faremo le quadri di moda floreale, che cosa si intende? Tutti possono venire a farsi fotografare come una top model, vestiti diciamo con abiti floreali vintage particolari, e noi li toccheremo, li vestiremo con il laboratorio di comunicazione della moda dell'Università di Pavia, e poi si degusta con la Fisar, si mangia il risotto ai fiori con la confraternita di risotto. Insomma, un gran divertimento dalle 10 del mattino alle 8 di sera, dal 21 al 24 giugno a Pavia. Benissimo, grazie Katia per questo appuntamento, e chissà, magari vi seguiremo. 800 24 00 24, tra poco ancora interventi degli ascoltatori in diretta. Adesso invece è il momento delle nostre previsioni economiche con l'avviso ai naviganti. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno speriamo. E oggi il nostro avviso ai naviganti parla di microcredito. Le banche non fanno credito in questo periodo, si sa, le aziende sono alle prese con il cosiddetto credit crunch. Da oggi però per gli imprenditori bravi e innovativi esiste un'alternativa, ed è proprio la diffusione del microcredito. È quello che è successo per esempio a Meets, innovativa azienda pescarese nel settore delle energie rinnovabili, diventata una realtà proprio grazie all'intervento di un fondo di garanzia Etimos Foundation, nato dopo il terremoto d'Abruzzo del 2009. E noi salutiamo subito Luca Lella, amministratore tra i soci fondatori di Meets. Buongiorno. Salve, salve signor Maurizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, voi avete girato un bel po' di banche prima di mettere su la vostra azienda, un'azienda innovativa nel campo delle energie rinnovabili, e pur avendo una bella idea che si basa, premiata tra l'altro da Confindustria, che si basa sul gruppi d'acquisto per impianti fotovoltaici, non avete trovato un soldo finché non vi siete imbattuti nel microcredito. Ci racconti com'è andata la vostra storia? Sì, come ha detto lei, avevamo questa idea, unire l'etica all'energia e fare gruppi di acquisto per il fotovoltaico. E nonostante avessimo vinto un concorso di idee promosso da Confindustria Giovani, sezione di Pescara, abbiamo avuto difficoltà per l'accesso al credito. Abbiamo impiegato anche alcuni mesi per riuscire a trovare una direzione che potesse permetterci, che ci potesse dare una mano per iniziare, e infine per fortuna ci siamo imbattuti in Etimos, che valutato il nostro business plan non ha esitato un attimo a darci una mano e a avere fiducia in noi. Luca Lella, resti in linea con noi, proviamo fra l'altro a vedere se si fa se stabiliamo una linea telefonica migliore, perché la sentiamo maluccio. E allora, visto che la storia è arrivata al momento in cui Meets, questa promettente startup pescarese nel campo delle energie rinnovabili, ha incontrato il microcredito, noi abbiamo chiesto a Marco Santori, presidente di Etimos Foundation, di spiegarci in poche parole di che cosa si occupa il suo progetto. Noi vogliamo creare uno strumento finanziario di secondo livello che si affianca agli enti erogatori, che normalmente sono le banche in Italia, per poter facilitare l'accesso al credito a soggetti, persone, cooperative ed imprese che normalmente con i normali prodotti finanziari non potrebbero accedere alle banche e agli servizi finanziari. Questo attraverso un accompagnamento di tutoraggio, un riprocessamento della problematicità, coadiuvato da servizi sociali dei territori che ci supportano e ci affiancano in questo nostro lavoro di supporto all'impresa. Lo facciamo con dei fondi di garanzia, offrendo quindi delle garanzie e offrendo anche dei servizi di tutoraggio che l'impresa e la banca pagano e riconoscono come utili per poter risolvere i loro problemi di accesso al credito. Aggiungiamo che Etimos Foundation sta per lanciare una nuova impresa sociale, M per IT, microcredito per l'Italia, in attesa delle dovute autorizzazioni da parte della Banca d'Italia per sbarcare dall'Abruzzo, dove siamo con MITS, con questa impresa di cui stiamo parlando, in altre regioni, cioè dall'emergenza post-terremoto dell'Abruzzo passare ad un'operatività di microcredito normale su tutta l'Italia. Ma torniamo ai nostri amici dell'impresa MITS. Voi che cosa fate esattamente? Perché insomma, parlando con voi ho scoperto che avete tante cose da raccontare, un'impresa molto particolare. Reinvestite per esempio una parte grande dei vostri utili sul territorio e promuovete questa idea, diciamo, innovativa dei gruppi d'acquisto per gli impianti fotovoltaici, perché spesso mettere i pannelli solari sul tetto di casa magari può costare troppo, può essere troppo difficoltoso per una singola famiglia. Esatto, non solo. Può anche nascondere delle insidie, infatti da qui siamo partiti con l'idea di creare dei gruppi anche per favorire la condivisione delle scelte e di quelli che sono gli aspetti tecnici e burocratici che bisogna affrontare per realizzare un impianto. Per quanto riguarda i gruppi d'acquisto, abbiamo deciso di adottare una filosofia a basso profitto. Quindi il 70% del nostro utile lo reinvestiamo sul territorio nel quale andiamo ad operare. Cioè, ascoltatori, non so se avete capito bene, il 70% degli utili vengono reinvestiti. Lei mi diceva la vostra è un'azienda a basso profitto, ma siete matti? Cioè, per cosa lavorate allora, Lella? Cioè, ce lo spieghi? Lavoriamo per innanzitutto per sostenerci, altrimenti non potremmo essere un'impresa. Lavoriamo per guadagnare, ma guadagnare in maniera misurata, più giusta, e guadagnare nel tempo, quindi un profitto che sia sostenibile a medio e lungo termine e non solo per aggredire il momento, quindi magari sfruttare una bolla speculativa e poi cambiare oppure reinventarsi in qualche altro settore. Noi crediamo fermamente in quello che facciamo e siamo convinti che l'energia possa essere uno strumento di innovazione e di fonte di risparmi e quindi generatrice di un'economia importante che soprattutto in questo periodo deve sposarsi con una sostenibilità anche sociale. Quindi una innovazione socio-economica che vogliamo apportare e insomma ci impegniamo tantissimo perché il lavoro da fare è tanto e quindi decidiamo di essere generosi e esagerare se vogliamo, ma farlo da subito perché dobbiamo recuperare un bel po' di tempo che abbiamo perso. Insomma, volete gettare le basi per un'attività, per un business, per un'attività economica che duri nel tempo, quindi questo è il vostro obiettivo. Ecco perché quando parliamo di un'azienda low profit non parliamo, come dicevamo prima scherzando, di qualcuno che è impazzito e ha perso completamente il senno. Il profitto sì, però guardando anche alla sostenibilità del progetto. Grazie Luca Lella di MITS, e questa era la startup pescarese nata grazie a Etimos Foundation. Torneremo a parlarne non appena ci saranno le autorizzazioni e il microcredito potrà, quello di almeno M per IT di Etimos Foundation, sbarcare anche in altre regioni, e sarà un fatto importante. 12:44, traffico tra poco, poi torniamo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi chiediamo di commentare quello che avete sentito, e poi a partire dalle storie degli orti e dei contadini di San Paolo, quartiere di Bari, avremo un altro ospite che darà una risposta alla domanda che vi abbiamo posto: meglio laureati o contadini? Una risposta da parte di una persona quantomeno qualificata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, cari ascoltatori, ben ritrovati. Eccoci qua, abbiamo ancora qualche telefonata in diretta. Walter che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, salve. Allora, io la contattavo perché ritengo che sia meglio fare il contadino che invece laurearsi con quei titoli che poi dopo che non portano a nulla, cioè laurearsi in scienze politiche, tutti tutti i centri politiche, poi dopo che non trovano lavoro, beh, allora meglio fare un lavoro forse più umile, ma comunque degno, e in contatto con la natura o la terra, piuttosto che perdere tempo alla fine, perché se uno Walter rimane... non lo dica a me che sono laureato proprio in scienze politiche, ho rischiato però... di rimanere senza un lavoro, ma è andata bene. Beh, lei certo. Che lavoro fa, Walter? Io sono responsabile finanziario in una società, però quindi all'opposto proprio. Terra io. Sì, però io sono nato in campagna. Chi c'ha le radici? Sì, le manca un po' questa vita? Sì, guardi, io ho lavorato per anni a Milano in banca d'affari. Mi sono scocciato, stressato e sono andato a lavorare a Parma. E devo dire che tutt'altra vita, più vicino alla campagna, sono. Alla mia terra, ecco, quindi... Parma, credo... tra l'altro, il centro delle vicende politiche italiane negli ultimi giorni, con tutto quello che si è detto attorno al nuovo sindaco Grillino. Walter, che altro? Grazie. Buona giornata per essere intervenuto. Invece agli ascoltatori che non sono riusciti a entrare oggi nella puntata in diretta, potete chiamare alla nostra segreteria telefonica 828 12 12. Two hands and I can clean up the earth. Lord, with my own two hands and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Con le mie mani posso cambiare il mondo, Ben Harper. Chi meglio del nostro contadino, oggi tanto evocato nella puntata di oggi, potrebbe pronunciare una frase così: con le mie mani posso cambiare il mondo. E allora eccoci arrivata al nostro prossimo atteso ospite. Lei è una giovane contadina, la sua storia è stata tra quelle emerse alla recente assemblea dei giovani della Coldiretti. Ha 23 anni, credo, adesso lei ce lo confermerà. Coltiva e vende frutta e forse anche altro. Si chiama Letizia Marcenò, buongiorno. Ciao ragazzi, sì, sono Letizia da Palermo, ho 23 anni. E hai un sogno: produrre banane in Italia, per l'esattezza in Sicilia. È questo, no, che vorresti fare? Perché tu dici... è un sogno che si sta avverando comunque. Da qualche anno stiamo producendo banane, certo non a livello industriale, però comunque abbiamo iniziato con delle buone coltivazioni. Ecco, diciamo il perché... sogno è... Sì. Diciamo perché, Letizia, è un po' strano l'idea di produrre banane, perché forse fin qua a produrle in maniera intensiva, industriale, non so come dire, in Italia, al sud, non ci aveva pensato nessuno, nonostante il sole al sud Italia non manchi e nonostante il mercato delle banane, insomma, vada bene, perché è uno dei frutti, fra l'altro i bambini ne vanno pazzi. Sì, e invece, ecco, ecco, quindi ci stavi raccontando di questo tuo sogno che sta diventando realtà. Diventando realtà, perché tra il clima che è molto favorevole qui da noi in Sicilia, tra comunque che c'è una grande richiesta, è un qualcosa di molto fattibile. Senti, stamattina quando ci siamo sentiti eri al mercato a vendere nespole a Catania, sei ancora... Sì, sono a Catania, sono ancora qui a Catania, io arriverò a casa stasera alle 5. E la sveglia a che ora è suonata stamattina? Come? E dico, la sveglia a che ora è suonata stamattina? Fino alle 2.30. A che ora? Alle 2.30. Ecco, tanto per dire, beh, questo lavoro, sì, qua, no, qua, ma io sono abituata a questo. Quali piccoli inconvenienti? Né la domenica sera, non esiste né uscire né andare a ballare, però insomma, per vivere e andare avanti bisogna fare dei grandi sacrifici che purtroppo noi giovani stiamo facendo. Un po' troppo pesanti. Le soddisfazioni spero che non manchino. Com'è andata oggi la vendita delle nespole? Le soddisfazioni no, molto bene, grazie a Dio. Il nostro prodotto è riconosciuto in tutta Italia. Qua a Catania proprio impazziscono per le nostre nespole. La vendita è andata molto bene, sì. Senti, noi oggi abbiamo chiesto anche agli ascoltatori chi ci salverà. Siamo partiti da una storia, non so se hai sentito la puntata, forse no, sei al mercato di Catania a vendere le nespole, la storia di questi orti sociali che sono spuntati nelle periferie di Bari e che stanno rianimando il quartiere. Tu fai di mestiere, insomma, la coltivatrice, ti occupi proprio della terra, e noi abbiamo chiesto agli ascoltatori chi ci salverà, i laureati o i contadini. Tu che risposta dai? Allora, come prima risposta dico, di sicuro non ci salva lo Stato, questa è la cosa più sicura, è che lo Stato sta solamente cercando di uccidere se gli imprenditori si sei andata sul facile, Letizia, sei andata sul sicuro, perché sì, adesso lo Stato gode di una fama sì, lo Stato sta cercando di uccidere dal povero al ricco, a prescindere da questo, secondo noi oggi come oggi ci sta salvando la terra, proprio la terra. Perché io sono laureata, ma ormai la laurea io l'ho messa nel cassetto, non ne sto facendo nulla della mia laurea. Io sono laureata in scienze e tecnologie alimentari a Parma con 110, non ne sto facendo nulla. Quindi sono ritornata alle radici, sono ritornata alla terra ed è la terra che mi sta dando le soddisfazioni, non la laurea. La laurea l'ho presa con tanti sacrifici, ma l'ho solo potuta conservare in un cassetto. Invece con la terra sto andando avanti, mi sto portando avanti la mia famiglia. Ma se tu tornassi indietro, quindi non faresti questo percorso di studi? No, assolutamente no, perché non mi sta servendo a nulla. Cioè, avresti saltato direttamente gli anni degli studi universitari per andare direttamente ad occuparti insomma, di queste terre. Già sarei molto più avanti, ma è sicuro che venderei banane in tutta Italia. Ecco Letizia, però la domanda è questa, se uno rimanesse affascinato da questo genere di storie, come si fa? Cioè tu la terra ce l'avevi, era dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, l'hai comprata, la stai comprando? Noi siamo dei grandi proprietari terreni comunque, grazie a Dio appunto alle spalle ho una famiglia con dei grandi affettamenti di terreno. Mio padre mi ha dato le basi proprio per creare questa azienda e quindi di conseguenza tra la crisi, tra tutti i problemi finanziari che ci sono al momento, noi la nostra azienda l'abbiamo creata tutto con il nostro sudore, con il nostro lavoro, non abbiamo mai chiesto un euro di contributo. Va bene. Letizia, ti dobbiamo salutare, grazie. Letizia Marcenò, coltivatrice palermitana oggi a Catania per vendere le sue nespole. È finita anche questa puntata, io ringrazio per la diretta Gian Gabriel Lombardo in assistenza, Roberto Scaltritti in regia, per la redazione Franco Piantanidi e Andrea Piana che ha scritto con me il programma. Ci sentiamo domenica prossima. Dal momento che la politica non permette facilmente l'ingresso del cittadino comune e che pare che l'unico modo di entrare nel partito sia iniziare a 16 anni a creare relazioni sociali di una certa importanza, allora mi viene un'idea, perché non provare a pensare a un programma su Radio 24 che per quanto mi riguarda è la radio in assoluto migliore che sia mai esistita forse sul pianeta, che permetta a tutti i cittadini, ovviamente previa una minima selezione, di fare dei comizi, un programma radio che si chiama Comizi, in cui il cittadino comune, ovviamente che abbia almeno un'idea accettabile, valida, abbia un tempo definito per fare un comizio, chissà, magari lasciare dei riferimenti e da lì potrebbe anche nascere un'idea, una lista civica o qualcosa del genere. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.